Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Ondivago ritorna a galleggiare in prossimità dei vostri padiglioni auricolari. Il nostro programma vanta un nuovo indirizzo, ancora più semplice e collegato al precedente. ondivago.com. Ondivago si conferma una libera emissione culturale in espansione, con l'obiettivo di proporvi puntate stimolanti, insolite, in grado di movimentare i nostri pensieri e la nostra immaginazione. L'indipendenza e la qualità sono per noi irrinunciabili. Fare radio nella società dello spettacolo è sicuramente una scommessa. Siamo ogni giorno invasi da mille frastornanti messaggi, sporcati dall'inquinamento acustico televisivo, urbano, musicale. Una radio che parla, che ascolta, che smonta, che crea e ricrea, può aiutarci a recuperare un po' di serenità, a fugare l'alienazione postmoderna, a riprendere con più facilità le nostre migliori capacità. Ondivago è ora una piccola realtà, sempre più ricca però di progetti, dalla poesia all'arte contemporanea. Ondivago lo sentiamo come un corroborante, una bevanda energetica da agricoltura biologica. Vi invitiamo a sorseggiarla e ad offrirla ai vostri amici. Ondivago vuole essere anche uno spazio di creazione radiofonica e non una semplice, passiva e omogeneizzata trasmissione. Troverete in Ondivago vari modi di fare radio, dal documentario al radiodramma. E proprio a questo ultimo genere si avvicina la proposta di oggi. Si tratta di Grasso, un racconto di Antonio Lillo, interpretato da Elisa Gestri. Accogliamo sulle nostre onde una elegante, colorata realizzazione che ci arriva da Roma, attraverso la voce di Elisa Gestri, che abbiamo conosciuto attraverso i suoi spettacoli e il suo interesse per la radio. È la storia di chi si ritrova davanti a un problema, o meglio un disastro che il corpo manifesta. Inaspettata è la visione che viene fornita all'ascoltatore, e scombinata ne risulta l'opposizione bene e male. Ma non vogliamo anticiparvi nulla. Accomodiamoci su una poltrona di velluto verde. Buon ascolto! Compagnia Tintin presenta Grasso di Antonio Lillo con Elisa Gestri. Montaggio audio Michele D'Onofrio. Regia Elisa Gestri e Michele D'Onofrio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Da bambino ero grasso. Ora ho perso peso, faccio sport e nessuno potrebbe sospettare il mio passato di obeso, vero? Ma il grasso mi è rimasto nel cervello, me lo inquina. È colpa di mia madre. Amavo mia madre. Mia madre, piccola, tozza, con le guance rosse, tanto dolce, quando mi riempiva di baci o mi faceva il solletico sotto i piedi la mattina per svegliarmi. Quando hai fame, mi diceva sempre, non importa se il pane è duro, l'importante è mangiare. Peccato che noi di fame a casa non ne avevamo mai. Ogni nostro pasto era qualcosa di fantascientifico e accuratamente studiato per l'ingrasso. Anguria, pompelmo, mela, banana, perché mia madre aveva letto su una rivista che la frutta prima dei pasti fa digerire.